Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Effetto Notte, le notizie e gli approfondimenti di giornata, a cominciare dal Consiglio dei Ministri che ha dato poco fa il via libera alla riforma della pubblica amministrazione. In arrivo norme sul ricambio generazionale, annuncia il governo, che permetteranno di creare 15.000 posti di lavoro. L'autorità anticorruzione potrà proporre commissariamenti sugli appalti sospetti. L'annuncio di Grasso ha avviato l'iter per lo stop ai vitalizi per i senatori condannati. Il Partito Democratico si prepara ad un'assemblea nazionale molto tesa dopo le polemiche sul caso Mineo. Renzi, nel PD si discute, ma l'anarchia non si accetta. I jihadisti avanzano verso Baku e Baghdad e dalle moschee si richiamano i fedeli alle armi per difendersi dai ribelli. L'America promette nuovi aiuti, ma niente nuove truppe. Obama, il futuro dell'Iraq dipende dagli iracheni. Appello del pentito di Camorra Iovine ai boss: pentitevi, aiutate i magistrati, il clan dei Casalesi non esiste più. Le dichiarazioni dell'ormai ex capo clan in videoconferenza al processo a Santa Maria Capua Vetere. Scuola, l'esame di maturità si avvicina, studenti a caccia delle tracce su internet, ma il Ministero della Pubblica Istruzione rassicura con un tweet: nessuna brutta sorpresa quest'anno. Le prove saranno in linea con i programmi svolti. In questi minuti, in questi istanti, in campo Olanda-Spagna, siamo ai mondiali, Croazia furibonda per l'arbitraggio di ieri sera, il Brasile da parte sua ammette l'aiuto ricevuto e il capo dei fischietti lo difende. Domani l'esordio degli azzurri contro gli inglesi. Ripartiamo dal Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno provvedimenti molto attesi, molto discussi in questi giorni, a cominciare dalla riforma della pubblica amministrazione. Consiglio dei Ministri conclusosi poco fa, in diretta da Roma, Vincenzo Miglietta. Vincenzo, tantissimi provvedimenti, sì. Sarà complicato dirli tutti, ma insomma ci proviamo. Sì, è così soprattutto perché la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi tra l'altro ha aggiunto molta carne al fuoco e lo stesso Renzi ha detto dovrete aspettare le prossime ore per avere dettagli maggiori, ma comunque andando con ordine, Piera, dicevi giustamente nei titoli, corruzione, lotta alla corruzione da una parte, riforma della pubblica amministrazione dall'altra, veniamo ad alcuni dettagli molto interessanti sulla riforma della pubblica amministrazione. Si era parlato molto della mobilità obbligatoria, questa vi sarà ma fino a 50 chilometri, lo ha confermato poco fa lo stesso ministro della pubblica amministrazione Madia, ed ancora la cosa che ha sottolineato maggiormente il Presidente del Consiglio, vi è un profondo ricambio generazionale, il Presidente del Consiglio ha detto ci sono norme sul ricambio generazionale che permettono di creare 15.000 posti con la modifica dell'istituto del trattenimento in servizio. Una parentesi va dedicata a Piera a che tipo di strumento sarà utilizzato da Palazzo Chigi per la riforma della pubblica amministrazione. Gli strumenti sono due: da una parte un disegno di legge delega, quindi tempi abbastanza lunghi per la trasformazione della macchina dello Stato, dall'altra un decreto nel quale il governo punta ad inserire alcune pillole per dare una scossa in tempi rapidi alla macchina della pubblica amministrazione. Dicevamo del ricambio generazionale, un altro aspetto molto importante, i permessi sindacali, con le misure varate oggi, ha detto Renzi, dimezziamo il monte ore dei permessi sindacali nella pubblica amministrazione. Più in generale possiamo poi passare all'argomento delle toghe, è un argomento un po' specifico ma comunque che costa molto anche alla macchina dello Stato, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili in funzioni direttive o semi direttive che hanno una certa età, ovvero superiore ai 70 anni, sono fatti salvi fino a tutto il prossimo anno, e questo è una delle novità dei vari provvedimenti approvati questa sera. Come dicevo, c'è poi tutto un aspetto relativo alla semplificazione, quindi una pubblica amministrazione che va verso sempre di più verso una maggiore presenza dell'online, un dialogo sempre più importante tra i vari settori dello Stato, questo per arrivare Piera ad un risparmio nei prossimi 5 anni che dovrebbe essere dell'1%, che è comunque una grande cifra sugli 800 miliardi della spesa pubblica annuale, l'1% nei prossimi 5 anni di taglio alla spesa spesa dello Stato. Insomma, un intervento abbastanza importante sulla pubblica amministrazione, che va poi ad affiancarsi invece all'altro provvedimento molto atteso di giornata, con i maggiori poteri che vanno comunque a Cantone, all'Agenzia Nazionale Anticorruzione, nel prossimo anno, entro l'anno, tutti gli appalti passeranno sotto il compito e sotto la supervisione dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione. Non vi saranno più sovrapposizioni e quindi non vi dovrebbe essere più in teoria la possibilità di eludere i controlli che evidentemente sono mancati negli ultimi tempi. E poi la conferenza stampa di Renzi è stata dedicata molto anche all'attualità politica, ai messaggi che il Premier ha voluto mandare al suo stesso partito, ha fatto riferimento al cammino delle riforme, ha detto: ho ottenuto il 40% nelle ultime europee, di sicuro non mi faccio fermare da un singolo senatore, il paese deve uscire dalla palude. E su questo, Piera, possiamo sentire il contributo audio del Presidente del Consiglio Renzi. Voglio essere molto chiaro, i cittadini ci hanno chiesto di cambiare l'Italia, io non accetto tutte le discussioni, i compromessi e le mediazioni che siano coerenti con il messaggio dei cittadini, non mi rassegno all'idea che vinca la palude. Vincenzo. Sì, e sin qui quindi le parole del Premier. Per quanto riguarda poi il Consiglio dei Ministri, il Premier ha annunciato anche importanti nuove nomine. Velocemente, alla guida della Consob, il governo ha indicato Anna Genovese all'ANAC. Le persone che affiancheranno il commissario Cantone sono Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi. Sono questi i nomi che saranno all'autorità anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone. Ed ancora un importante nome per la guida dell'Istat, il governo ha indicato il nome di Giorgio Alleva, e per chiudere la guida dell'Enit il governo ha indicato Cristiano Radaelli. In sostanza nuovi volti, ma soprattutto, Piera, da questa conferenza stampa Renzi ha voluto dare l'idea e l'immagine di un governo che prende le decisioni in tempi rapidi e cambia passo. Indica anche nuove persone per importanti. Grazie a Vincenzo Miglietta. Torneremo tra l'altro fra pochissimo nella seconda parte di Effetto Notte sulle decisioni prese che ci sintetizzava Miglietta. Approfondiremo dunque alcune parti. Ora invece facciamo una pausa sportiva, perché da pochi minuti sono in campo Olanda e Spagna. Allora sentiamo come sta andando dal nostro Giovanni Capuano. Giovanni. Sì, Olanda e Spagna che sono in campo a Salvador da circa 10 minuti, il risultato ancora fermo sullo 0-0 in questa che è la riedizione, quasi la rivincita della finale del Mondiale del 2010 in Sudafrica. Allora vinse la Spagna con un gol di Iniesta proprio negli ultimi istanti di gioco del secondo tempo supplementare. Qui in questa partita che è la gara d'apertura per entrambe le nazionali, fin qui si è visto ritmo basso e soprattutto una grandissima occasione per l'Olanda con Sneijder, che si è presentato a tu per tu con il portiere della Spagna Casillas all'interno dell'area di rigore, ha tentato di batterlo con un diagonale, ma Casillas è stato molto bravo a mettere la palla in calcio d'angolo. Dunque ancora 0-0 risultato quando siamo all'undicesimo minuto. L'altra gara del girone, lo ricordiamo, a partire dalla mezzanotte italiana, Cile-Australia, mentre nel tardo pomeriggio si è giocato Messico-Camerun con la vittoria del Messico per 1-0, la rete di Oribe Peralta al minuto numero 60. A te. Grazie Giovanni, naturalmente torneremo ad aggiornarci con te perché vogliamo sapere e seguire questa partita più o meno minuto per minuto. Torniamo alle notizie del GR. Il Consiglio d'amministrazione di Alitalia ha approvato la proposta di partnership fra Alitalia ed Etihad presentata da quest'ultima, dando mandato al presidente Roberto Colaninno e all'amministratore delegato del Torchio di negoziare il relativo contratto. Indagini in Italia, indagini anche oltre la Manica, riguardano il neo alleato grillino Farage. ha omesso di dichiarare oltre 200.000 sterline in donazione alla commissione elettorale, o meglio, lo ha fatto involontariamente 13 anni dopo, quando i giornali hanno riportato i rimborsi ricevuti dall'Europarlamento per il mantenimento dell'ufficio ricevuto in regalo. Per questo il leader dello UK Independence Party, Nigel Farage, rischia una multa fino a 20.000 sterline, se non addirittura, mal'ipotesi, è improbabile, un anno di prigione. Il controverso portabandiera dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea torna a occupare le cronache per l'utilizzo di un ufficio nei pressi di Bognor Regis, amena località nel sud dell'Inghilterra a poche miglia da Brighton. 14 donazioni in tutto che avrebbe dovuto dichiarare entro un mese alla Commissione elettorale britannica e che Farage sostiene di aver sì segnalato, ma in un registro a Bruxelles. La Commissione per ora evita prese di posizione, limitandosi a dire che studierà il caso prima di optare per eventuali azioni contro Farage, il quale nella sua rubrica settimanale sul Daily Express ribadisce che il primo obiettivo del suo mandato è portare la Gran Bretagna fuori dall'Unione. Intanto il premier David Cameron continua la sua opera di attacco alla candidatura di Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione europea. Non è stato votato da nessuno, non ha l'appoggio delle istituzioni nazionali, ha affermato. Si allarga così il divario con Berlino. La nomina di Juncker non viola i trattati, replicano dalla cancelleria tedesca. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Situazione tesissima in Iraq, è tornato a parlarne anche il presidente americano Obama, escludendo di inviare nuove truppe. Bloccati social network e altri siti per impedire le comunicazioni tra i miliziani jihadisti. Anche queste sono armi per l'esercito governativo iracheno, impegnato a liberare le città occupate e a contrastare un'ulteriore avanzata dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. Una minaccia che cresce a mano che gli uomini armati marciano verso Baghdad. Il fronte ormai a soli 90 chilometri dalla capitale, da dove fuggono i cittadini spaventati che si aggiungono agli oltre mezzo milione che ha già lasciato Mosul, Tikrit e Samarra per scappare alla violenza. Molto felice per i successi dei ribelli, si è detta la figlia maggiore di Saddam Hussein, l'ex leader iracheno giustiziato nel 2006. Queste sono vittorie degli uomini di mio padre, ha dichiarato. Dall'altra parte il presidente americano Barack Obama ha oggi confermato aiuti per il paese, ma escluso l'invio di truppe, chiudendo così: il futuro dell'Iraq dipende dagli iracheni. Erika Magnello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Camorra, oggi l'appello ai boss del pentito Iovine. Sarebbe bene che tutti quelli che mi conoscono seguissero l'esempio che sto dando. A parlare il boss pentito Antonio Iovine durante l'interrogatorio nell'aula del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dove è in corso il processo nel quale è imputato tra gli altri l'ex sindaco di Villa Literno Enrico Fabozzi. L'ex capoclan dei Casalesi ha lanciato un appello a boss e affiliati a pentirsi e, seguendo il suo esempio di persona razionale, come si è definito, a collaborare con la giustizia. Iovine ha rivelato di aver compreso fin dalla latitanza che il gruppo criminale di cui era capo non aveva un futuro, convincimento che poi si è rafforzato nel corso della detenzione. Riflettevo, le parole del boss in aula, sulla necessità di appartenere o meno a un clan che magari non esiste più e sul fatto che sarebbe bene che un po' tutti quanti facessero chiarezza e aiutassero la magistratura, anche, ha sottolineato, per cambiare la mentalità che esiste nelle nostre zone. Iovine era considerato il ministro dell'economia del clan, è stato condannato all'ergastolo al termine del processo Spartacus, il più importante contro i Casalesi, è stato arrestato dalla polizia dopo 15 anni di latitanza nel 2010 a Casal di Principe e per 4 anni è stato detenuto in regime di carcere duro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Ministero dell'Istruzione rassicura i maturandi su Twitter. Nelle prove d'esame non ci saranno sorprese. Dal MIUR arriva una soffiata ai maturandi. Chi ha preparato le prove vi rassicura, sono in linea con i programmi. Il cinguettio arriva direttamente da Viale Trastevere per tranquillizzare il mezzo milione di studenti che si stanno preparando alla maturità. Un indizio non da poco dopo la sorpresa dell'anno scorso, quando tra le tracce della prima prova c'era un'analisi del testo su Claudio Magris. Secondo un'indagine di scuola.net, quest'anno gli studenti avrebbero letto più libri di scrittori contemporanei, temendo proprio di doversi confrontare con autori fuori programma. Intanto tra classici e contemporanei è già partito il tototema. Daniele Grassucci di scuola.net. Le votazioni maggiori sono per D'Annunzio e Primo Levi, però dovendo scommettere su un outsider, molti appunto hanno fatto il nome di Marquez anche in virtù della sua scomparsa. Una maturità nel segno dei social network. Il MIUR ha chiesto ai maturandi di raccontare i loro giorni da quasi maturi sui social, ma a chi chiede un'anticipazione sulla prova di matematica il profilo Twitter del Ministero risponde: nessuna anticipazione, solo un invito alla serenità. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. In Consiglio dei Ministri il via libera alla riforma della pubblica amministrazione. In arrivo nuove norme sul ricambio generazionale, annuncia il governo, che permetteranno di creare 15.000 posti di lavoro. Poteri forti all'autorità anticorruzione, che potrà proporre commissariamenti sugli appalti sospetti. I jihadisti avanzano verso Bakuba e Baghdad, e dalle moschee si richiamano i fedeli alle armi per difendersi dai ribelli. L'America promette nuovi aiuti ma niente nuove truppe. Obama: il futuro dell'Iraq dipende dagli iracheni. Appello del pentito di Camorra Iovine ai boss: pentitevi, aiutate i magistrati, il clan De Casalesi non esiste più. Le dichiarazioni dell'ormai ex capo clan in videoconferenza al processo a Santa Maria Capua Vetere. In questi minuti in campo Olanda, Spagna, Croazia furibonda per l'arbitraggio di ieri sera. Il Brasile da parte sua ammette l'aiuto ricevuto. Domani l'esordio degli azzurri contro gli inglesi. Fra un attimo approfondiremo le decisioni arrivate dal Consiglio dei Ministri, di cui abbiamo abbondantemente parlato anche nella prima parte di Effetto Notte. Prima però una puntatina sui mondiali con Olanda-Spagna. Torna ad aggiornarci Giovanni Capuano. Giovanni. Sì, 19° del primo tempo, ancora 0-0 il risultato. Si è svegliata la Spagna, che in un paio di occasioni ha provato ad andare vicino al gol, in entrambi i casi con Diego Costa, e soprattutto la prima volta al 13° l'attaccante è stato murato da un intervento provvidenziale di un difensore olandese, copione che si sta ripetendo anche in questi istanti con un'azione pericolosa della Spagna all'interno dell'area di rigore dell'Olanda. Olanda che adesso sta abbastanza facendo fatica ad uscire dalla propria area di rigore, la Spagna che ha decisamente alzato il baricentro dopo i primi minuti in cui era stata l'Olanda ad avere le migliori occasioni. Spagna che adesso si è vista per due volte all'interno dell'area di rigore dell'Olanda. 0-0 ancora il risultato, 20° scoccato a terra linea. Grazie Giovanni, a fra pochissimo. Torniamo invece al Consiglio dei Ministri, alle norme approvate. Siamo in collegamento con il collega del Sole 24 Ore, Davide Colombo. Buonasera Davide. Buonasera a voi. Ti giuro che ti lascerò immediatamente al tuo lavoro. Quante pagine state scrivendo su questo Consiglio dei Ministri? Credo le prime 10 del giornale, se non ho contato male. Ecco, quindi insomma domani davvero sul Sole 24 Ore ci saranno tutti i dettagli. Se dovessimo sintetizzare, so che è difficile scegliere cosa dire in due minuti, però se dovessimo sintetizzare, quali sono i temi che ti sembrano più importanti e soprattutto quelli che rappresentano una novità, insomma? Ma sicuramente diciamo che le norme sul pubblico impiego dovrebbero aprire un ciclo di rinnovo generazionale nella pubblica amministrazione italiana, che ha una età media in questo momento di diciamo un dipendente su due che sta attorno ai 45-50 anni. Renzi parla di 15.000 posti. 15.000 posti è un numero importante. Da qui al 2018 bisogna vedere se è un numero vero. Per realizzare quel numero è stato abolito un istituto che è quello del trattenimento in servizio, cioè la possibilità di rimanere per 2 o 5 anni dopo i requisiti maturati per la pensione, in alcuni casi, in alcuni uffici. Questo tocca delle figure molto particolari: 1.200 professori tra ordinari e associati nelle università italiane, oltre quasi 400 magistrati. Ci sono circa 2.000 trattenimenti in servizio l'anno, secondo i dati ufficiali dell'ARAN. Staremo a vedere come funzionerà questa norma. C'è un'interpretazione più flessibile del turnover, che rimane bloccato ma viene reso più fruibile dalle amministrazioni. Ci sono anche delle coperture economiche per rendere possibile questo ricambio generazionale. Davide, la vicenda di cui si è discusso molto nei giorni scorsi, 100 chilometri, 50 chilometri per i trasferimenti, come è finita? La norma dovrebbe essere chiusa sulla ipotesi di una mobilità obbligatoria all'interno del comune o fino a 50 chilometri, immaginando che tra una sede e l'altra la mobilità implichi il mantenimento dell'impiego di questo dipendente, di questo funzionario, con la stessa unità produttiva. E anche questa è una sfida importante, nel senso che forse anche più importante di quella della staffetta generazionale, per la dimensione, se realizzata naturalmente, ricambio di ruoli, funzioni, posizioni dentro la pubblica amministrazione. Se questo tipo di processo di mobilità verticale e orizzontale per ruoli e funzioni, per tipi di apparati amministrativi, dal centro al territorio o viceversa venisse realizzata, ecco, potrebbe in qualche modo dare una, aprire una fase nuova nella vita della pubblica amministrazione italiana che non ha mai sperimentato dinamiche di questo tipo e che quindi porta con sé appunto tutte le peculiarità a volte un po' negative che il paese conosce. Assolutamente. No? La staticità se la mobilità venisse realizzata, se si riescono davvero a dischiudere questi margini per un rinnovo, diciamo, generazionale, allora sicuramente questo è un passo importante, come è molto interessante quello che viene previsto nella delega di riforma della dirigenza pubblica. In estrema sintesi l'idea di introdurre maggiori criteri di valutazione di mercato, diciamo, nella dinamica di accesso e poi di carriera dei dirigenti dello Stato e delle amministrazioni periferiche. E anche questa sarebbe una bella novità, in effetti. L'idea di, appunto, in qualche modo agganciare a una valutazione il ciclo di carriera di un dirigente, un ciclo di carriera che non può essere superiore a 3 anni, che quindi ogni 3 anni in qualche modo induce a una riconsiderazione della posizione del dirigente, della sua ricollocazione stando in un ruolo unico a cui ha acceduto per concorso. Insomma, è un tentativo di dare una mossa. È il quarto tentativo di grande riforma della pubblica amministrazione che viene realizzato negli ultimi 20 anni. Non si scrivono mai su un foglio bianco, diciamo, i tentativi, sì, di riforma della pubblica amministrazione. Bisogna vedere poi l'attuazione, la fase di implementazione, esatto, che forza avrà l'attuale indirizzo politico, l'attuale governo, per portarla a compimento. Cosa arriverà? Grazie. Per cui ce la possono fare. Grazie Davide, ti avevo promesso che ti avrei trattenuto poco, ti lascio le tue 10 pagine che domani naturalmente tutti potranno leggere su Sole 24 Ore riguardo a tutte queste norme approvate. Grazie a Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore. E noi andiamo invece ad un altro troncone della riforma, quella che riguarda i nuovi poteri del supercommissario Cantone sui contratti pubblici, una mossa resasi ancor più necessaria dopo le recenti inchieste giudiziarie, pensiamo ad Expo, pensiamo a Mose. Raffaella Calandra, allora, le novità in tal senso che arrivano dal Consiglio dei Ministri. Allora, innanzitutto alla fine i superpoteri sono arrivati dopo tanti rinvii, ma per primo è lo stesso Raffaele Cantone a dire: nessuno si aspetti da me opere messianiche, almeno ora. Però dopo 40 giorni dagli arresti Expo e dopo anche lo scandalo Mose, il suo compito è stato definito e gli strumenti gli sono stati consegnati. Il primo e il principale è la possibilità di commissariare le aziende o quelle parti di aziende che risultino compromesse in inchieste giudiziarie. Nel caso cioè di sospetti di corruzione o di altri reati, l'autorità presieduta da Cantone può affidare ad un proprio funzionario il compito di gestire quella sezione incriminata e di gestire anche una contabilità separata, questione che ad esempio a Milano si è posta per la società di Maltauro, la società vicentina coinvolta nella vicenda nell'inchiesta Expo, aggiudicatrice di gare d'appalto ma considerate poi viziate. Su Cantone confluiscono anche tutti i poteri dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che di fatto sparisce a fine anno. Quindi il decreto legge è arrivato, bisogna anche dire che di fatto mette in atto quello che già da 2 anni era previsto visto da un'altra legge, la legge Severino Patroni Griffi, che già contemplava che ogni centro di spesa di denaro pubblico avesse un piano proprio anticorruzione con tanto di responsabile, però era sempre rimasta lettera morta fino a questi ultimi scandali. A Cantone finalmente sono stati dati anche mezzi, quindi computer e uomini, e degli esperti e degli agenti della Guardia di Finanza che avranno più poteri ispettivi, ma che comunque dovranno fermarsi laddove cominciano le competenze dei magistrati. Davanti a questo quadro lo stesso supercommissario Cantone riconosce sì che si tratta di poteri monchi ed emergenziali, ma non ha nascosto la sua soddisfazione di fronte a scelte che ha comunque definito coraggiose. Ma lui stesso ha chiarito: questi superpoteri non impediranno la corruzione. Sentiamo dunque Cantone. Primo impatto, diciamo una lettura veloce delle norme che riguardano specificamente le vicende Expo, mi sembra, diciamo, positivo in ordine alla possibilità di controlli. Controlli preventivi che riguardano gli appalti in corso e gli appalti, diciamo, che dovranno essere dati. Prevede un sistema di commissariamento che mi sembra una soluzione molto intelligente, perché non impedisce la prosecuzione dei lavori, ma diciamo, evita lo scandalo che un soggetto che ottiene la corruzione di fatto ottenga il vantaggio del proprio reato. La logica dell'emergenza mi sembrerebbe che le scelte fatte siano scelte coraggiose e si vadano nella giusta ragione. Se dunque i poteri per il supercommissario Raffaele Cantone alla fine sono arrivati e a Milano all'Expo esultano per questo, è slittato invece ancora una volta a fine mese il pacchetto anticorruzione, quello con la reintroduzione del falso in bilancio, con l'autoriciclaggio e con l'ipotesi di revisione della prescrizione. Ma come sappiamo bene, su questi temi gli scontri politici sono molto forti e quindi gli slittamenti anche più frequenti, anche se che va detto che oggi il guardasigilli ha incassato una apertura in attesa, sia pur parziale, da parte dei 5 Stelle. Grazie a Raffaella Calandra. Vi ricordo, domani su Sole 24 Ore uno speciale dedicato appunto al Consiglio dei Ministri e soprattutto ai provvedimenti che ne sono usciti, statali, imprese, appalti. Ecco che cosa cambia dunque con le nuove semplificazioni. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In Consiglio dei Ministri il via libera alla riforma della pubblica amministrazione. In arrivo norme sul ricambio generazionale, annuncia il governo, che permetteranno di creare 15.000 nuovi posti di lavoro. Poteri forti all'autorità anticorruzione, che potrà proporre commissariamenti sugli appalti sospetti. L'annuncio di Grasso: ha avviato l'iter per lo stop ai vitalizi per i senatori condannati. Il Partito Democratico si prepara ad un'assemblea nazionale molto tesa dopo le polemiche sul caso Mineo. Renzi: nel PD si discute, ma l'anarchia non si accetta. Da Alitalia, il SIAD Etihad, il CDA approva l'accordo, via libera alla trattativa sugli esuberi. Mondiali 1-0 Spagna-Olanda, Croazia furibonda per l'arbitraggio di ieri sera, il Brasile da parte sua ammette l'aiutino ricevuto. Domani l'esordio degli azzurri contro gli inglesi. E ripartiamo proprio dai mondiali, un aggiornamento da Giovanni Capuano. Giovanni. Sì, siamo arrivati al 35esimo del primo tempo e c'è in vantaggio la Spagna. Ha segnato Xabi Alonso su calcio di rigore al 27esimo, un calcio di rigore concesso da Rizzoli, il nostro direttore di gara che sta arbitrando questo Spagna-Olanda, per un tocco di De Frey su Diego Costa. Un tocco che, rivisto al rallentatore, lascia qualche margine di dubbio, ma a velocità normale sembrava rigore. È andato Xabi Alonso sul dischetto, palla alla destra di Schillisen, inutile il tuffo del portiere dell'Olanda. 1-0 della Spagna quando siamo al 36esimo del primo tempo. A voi. Grazie Giovanni. A fra pochissimo. E anche se il meteo non promette un granché, l'abbiamo sentito anche nelle previsioni che avevamo mandato in onda pochissimi minuti fa, quindi un tempo che non promette un granché per questo weekend, molti saranno già in macchina, forse proprio in questi minuti, per raggiungere il mare. Allora parliamo di mare bello, anzi del mare più bello, perché Legambiente e Touring Club Italiano hanno stilato l'annuale classifica attribuendo le 5 vele a 14 località che sono riuscite ad offrire vacanze da sogno e di qualità grazie alla gestione sostenibile di un territorio d'eccellenza, grazie anche alla salvaguardia del paesaggio, ai servizi offerti nel pieno rispetto dell'ambiente e all'enogastronomia di alto livello. Le 5 vele vanno dunque, non mele ma vele, vanno dunque a 14 località. Ne abbiamo scelta una, quella che insomma la prima diciamo in classifica, Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto, di cui salutiamo il sindaco Giancarlo Farnetani. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, io non sono mai stata a Castiglione della Pescaia. Male. A questo inizia punto male ecco, inizio malissimo. Mi dica cos'ha di così speciale da aver conquistato le 5 vele di Legambiente Touring Club? Vabbè, intanto il mare è più bello, il mare pulito. Noi abbiamo cura del nostro ambiente, facciamo dell'ambiente, della sostenibilità turistica e dell'accoglienza la nostra politica principale. Del resto siamo un comune turistico che conta molto sulle bellezze naturali che sono presenti sul nostro territorio e quindi dobbiamo curarle al massimo, e questo è stato l'impegno di questa amministrazione. Qual è il pezzo forte di Castiglione della Pescaia? Diceva il mare, sicuramente, infatti è mare, quello che viene premiato. Spiagge, però insomma, mare, spiagge, duna, pigneta, un ambiente, dicevo prima, accogliente. Noi certo. abbiamo congiuntamente all'apporto delle associazioni del mondo imprenditoriale abbiamo creato sinergie importanti e ultimamente abbiamo rivitalizzato un po' anche la bassa stagione, perché noi siamo stati riconosciuti anche per il 2014 come un europeo dello sport e abbiamo inventato un programma di eventi sportivi legati al turismo. Abbiamo fatto degli interventi importanti anche per quanto riguarda la ciclabilità turistica. Chi è che viene a Castiglione della Pescaia? Famiglie, soprattutto famiglie, giovani? Famiglie, giovani, insomma, abbiamo un turismo molto variegato. Abbiamo tantissimi stranieri, i tedeschi fanno la parte del leone. Sono arrivati i russi anche da voi? Sono arrivati i russi anche da noi, sono il terzo paese come popolazione turistica sul nostro territorio. Noi però abbiamo anche tantissimi italiani e chiaramente la Toscana la fa da padrona, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, quindi insomma è un turismo di vario tipo, un turismo che mira ad avere ambienti. Che dire, Farnetani, allora in bocca al lupo per questa stagione turistica che si avvia ormai, che parte proprio in questi giorni. Domani farà brutto, chissà se farà brutto anche lì a Castiglione della Pescaia. Dicono che sarà un fine settimana non bello. Vabbè, ci sarà di tempo. Ha avuto sempre la fortuna di avere tempo esatto. Grazie a Giancarlo Farnetani, sindaco dunque di Castiglione della Pescaia. E insomma, abbiamo sentito, molti si stanno mettendo in macchina in questi minuti, lo faranno magari anche domani mattina per raggiungere il mare, anche se magari sotto la pioggia. Allora attenzione, perché da domani mattina alle 7 fino alle 19.30 del 17 giugno rimarranno chiusi i self-service dei benzinai. Il 18 giugno poi benzinai chiusi del tutto, anche quelli che offrono il servizio, quelli insomma che ti fanno benzina. Antonio Ciavattini, segretario della Giunta Nazionale del FAIB, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, non è bellissimo che in questi giorni insomma non si possa fare benzina al self-service? Ci dia una buona ragione perché voi fate sciopero. Ma la ragione è semplicissima: noi vorremmo che anche gli altri distributori carburanti, non solo i non logo, avessero i prezzi bassi. Questa è la buona notizia che vogliamo dare agli italiani. L'auspicio nostro è che le compagnie petrolifere mettano nelle condizioni tutti i benzinai d'Italia di avere prezzi più bassi. Per questa ragione protestiamo, perché è in atto una vera e propria discriminazione della categoria. Sì, una discriminazione della categoria, però insomma si poteva scegliere magari un weekend un po' meno delicato, oppure giustamente gli scioperi vanno fatti quando vanno fatti, perché altrimenti non hanno efficacia? No, in questo senso noi abbiamo rispettato scrupolosamente le disposizioni di legge, abbiamo aspettato che si svolgesse la competizione elettorale perché non si può scioperare, abbiamo atteso anche i ballottaggi. Quindi abbiamo scelto un giorno infrasettimanale, quindi abbiamo cercato di evitare il fine settimana. Quindi, non vi ha soddisfatto l'incontro della settimana scorsa col governo? Ma l'incontro è stato positivo, lo abbiamo anche dichiarato, però certo non siamo ancora troppo sulle generali, bisogna entrare nel merito. Da troppo tempo ci è stato promesso che saremmo entrati nel merito, avremmo affrontato una vera e propria grande riforma di questo settore, cosa che non è arrivata. Va bene, grazie mille Antonio Ciavattini, segretario della Giunta Nazionale del FAIB. Noi torniamo a parlare di mare in qualche modo, perché abbiamo parlato del mare di Castiglione della Pescaia, ora parliamo di un mare un po' più lontano, non so se è più bello di Castiglione. Roberta Pellegata, è più bello? Buonasera, ma sicuramente è diverso, perché il mare del Mar Rosso è ricchissimo dei colori dei pesci e dei coralli, per cui snorkeling, diving. E si vede dalla tua bella faccina abbronzata. Ci sono stata di recente, si vede. Insomma, parliamo dunque, come avrete capito, di Egitto, un paese che gli italiani hanno sempre molto amato, e quelli che almeno hanno qualche soldino in più insomma da spendere. Ma anche perché comunque l'Egitto, perlomeno il Mar Rosso, è una delle mete più economiche, più conveniente esotiche in assoluto. Ma economiche. Gli italiani l'hanno sempre amata, sono loro gli scopritori e i creatori di località famosissime come Sharm el-Sheikh, per intenderci, e sono stati sempre assidui frequentatori del Mar Rosso. Però insomma è un paese che è un po' in difficoltà in questo momento, il caso a causa di dire della che, crisi politica, eccetera, il turismo segna un po' il passo. Latita un po', e latitano soprattutto gli italiani, perché adesso tendiamo a scegliere sempre molto meno l'Egitto per le nostre vacanze. Allora, proprio per il rilancio di questa destinazione che è vicina, economica, come si diceva, e affascinante, fosse altro che per il suo mare, è stato organizzato a Marsalam un evento senza precedenti che ha visto riuniti tutti gli operatori turistici che per una volta hanno fatto sistema. A chiamarle raccolta sto e Confindustria Viaggi, AINET, che è l'associazione dei network delle agenzie di viaggio, un evento che ha visto presente il ministro del turismo egiziano, l'ambasciatore italiano al Cairo, oltre che la stampa, per questo ci sono stata. L'obiettivo è dimostrare che il Mar Rosso è una destinazione sicura, nonostante il travel warning, il cosiddetto sconsiglio della Farnesina, arrivato dopo l'ultimo attentato di Taba. Sconsiglio che riguarda però soltanto Sharm el-Sheikh e il Sinai, non il resto del paese. Gli italiani però, a differenza dei turisti di altri stati, l'Egitto lo stanno evitando del tutto. Basti pensare che gli italiani sul Mar Rosso nel 2010 sono stati oltre 1.100.000, numero che si è dimezzato nel 2013, hanno che ha visto soltanto 500.000 presenze, questo nonostante i prezzi continuino a scendere. E allora Marsalam, tra gli altri, ho sentito Antonella Ferrari della direzione Sviluppo Rete Gattino Rimondo Vacanze, alla quale ho chiesto qual è l'atteggiamento nei confronti delle destinazioni sul Mar Rosso dei clienti italiani che entrano in agenzia. Alcuni non hanno assolutamente conoscenza dello sconsiglio, alcuni invece generalizzano ignorando il fatto che lo sconsiglio sia solo sul Sinai, ma pensando che lo sconsiglio sia sull'intero Egitto, e invece lo sconsiglio è prettamente su Sharm e non sull'intero Egitto, e quindi ribadisco tranquillamente: andate a Marsalam, a Marsamatru, a El Alamein piuttosto che a Berenice. Altrimenti le conseguenze quali possono essere? E potrebbe anche essere che, siccome i tour operator investono tantissimo e le agenzie per contro investono tanto per veicolare questo prodotto che ha una buonissima qualità e un buonissimo prezzo, può essere che arrivino i russi del caso a comprare, così come è già accaduto alle Maldive e anche con i cinesi, a comprare di botto tutto il villaggio, e quindi gli italiani che sono stati i primi ad arrivare su questa destinazione siano gli ultimi o vengano addirittura estromessi, e quindi si perde poi la capacità di fondo che è stata degli italiani fino a 3 anni fa di essere i primi sulla destinazione Mar Rosso. Ecco, cosa significa non essere più i primi sulla destinazione Mar Rosso? Non poter più pagare le cifre che si pagano adesso, quindi il rischio è che in futuro andare una settimana a Sharm el-Sheikh o a Hurghada invece che 500 euro, buttiamola lì, per che sì, insomma, sì. Esatto, che dobbiamo pagare adesso, se insomma potrebbero pagarsene molti di più. Grazie a Roberta Pellegatta, ci fermiamo con le informazioni sul traffico, poi torniamo insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In Consiglio dei Ministri via libera alla riforma della pubblica amministrazione, in arrivo norme sul ricambio generazionale, annuncia il governo, che permetteranno di creare 15.000 nuovi posti di lavoro. Poteri forti all'autorità anticorruzione, potrà proporre commissariamenti sugli appalti sospetti. L'annuncio di Grasso, avviato l'iter per lo stop ai vitalizi per i senatori condannati. Il Partito Democratico si prepara ad un'assemblea nazionale molto tesa dopo le polemiche sul caso Mineo. Renzi, nel PD si discute ma l'anarchia non si accetta. Attenzione, perché da domani mattina alle 7 fino alle 19.30 del 17 giugno rimarranno chiusi i self-service dei benzinai, il 18 giugno poi benzinai chiusi del tutto, anche quelli che offrono il servizio. Per i mondiali Spagna-Olanda 1-1, Croazia ancora furibonda per l'arbitraggio di ieri, domani l'esordio degli azzurri contro gli inglesi. Europa 24 notte. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano con lo spazio europeo in collaborazione con Euronet Plus. Oggi parliamo di scuola. Fare il liceo in 4 anni è veramente una cosa innovativa secondo me, perché poi 5 anni mi risultavano un po' tanti. Marina vive in Italia da 7 anni ma è ucraina. Là le scuole superiori durano meno, per questo il quinquennio italiano le sembra lungo.

dicevamo appunto queste anticipazioni di Prandelli, ha detto la nazionale che vuole rendere gli italiani orgogliosi di questa maglia. Attenzione però a questa Inghilterra, perché ha quattro giocatori offensivi molto bravi nell'attaccare gli spazi nell'uno contro uno, quindi dovremo essere bravi anche a serrare le fila dei nostri di centrocampo e difesa. Che ne è rimasto, Dario, della polemica sul campo? Beh, la cosa, vediamo innanzitutto cosa è rimasto del campo. Fra poco, tra circa mezz'ora, saremo allo stadio di Amazonas e quindi avremo la possibilità di vederlo con i nostri occhi e vedremo quale toppe saranno state messe a questo manto verde. Polemica che è ancora viva, sollevata soprattutto dagli inglesi. Certo, c'è il fatto che poi il campo sarà uguale per entrambe le squadre. Forse noi che cerchiamo un gioco più tecnico potremmo essere più penalizzati, ma adesso avremo la possibilità di vederlo dal vivo prima della conferenza stampa di Prandelli. Certo. E quindi domani mattina lo sentiremo nei nostri GR, com'è questo benedetto campo di cui ormai si parla da una settimana. Senti, Dario, ma ci sono degli italiani lì che tu abbia potuto capire, insomma, oppure in effetti il Brasile è un po' troppo lontano, Manau? Guarda, devo dire che finora non ne ho visti, ma perché sono veramente appena arrivato. Per ogni partita dell'Italia c'è stata una richiesta intorno a 1500 biglietti, non pochi, visto le distanze. Certo, assolutamente. Eccetera, eccetera. Dovrebbero essere a Manaus di più gli inglesi, di solito più spericolati in queste trasferte oltreoceano. Bene, Dario, allora mi raccomando, stai attento e ti salutiamo. Sicuramente ci ritroveremo poi domani con i tuoi aggiornamenti. Io approfitto per ringraziare in redazione Cristian Goldoni, Filippo Aureggi in regia. Ci ritroviamo fra pochissimo con i titoli delle notizie più importanti della giornata.